Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spie nel mio microfono. So bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle palle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi danno olio all'ingranaggio. Con le bianche al potere, tra bocchini sotto scrivanie tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali vogliono vegetali, schiavi in fila come militari, perciò mandano i loro emissari a scuola i miei professori, in strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali nei televisori, predicatori vendono la fede a rate, comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito, valgo più di 4 cifre, non credi, cronache di regime, cose che non vedi, cose che non vedi, che non vedi, cospirazioni, cospirazioni per il 2000, per il 2000, sarà scuola, scuola, scuola. Buonasera a tutte e tutti. Benvenuti e benvenute a, ancora una volta, a Cronache di Regime, sempre in frequenza streaming su Malaradio, che è la nuova radio insomma di Milano. Nona puntata di Cronache di Regime, 19.05, nona e penultima puntata, poi andremo in onda per l'ultima volta lunedì prossimo, avremo una pausa di un paio di settimane e dal 2 maggio si riparterà con un altro programma in una forma diciamo un po' più leggera e primaverile, anche a livello sia di contenuti che di musica, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Allora, iniziamo subito col darvi la scaletta di oggi. Subito dopo il primo pezzo con cui partiremo con il programma, insomma, ci sarà un'intervista con un compagno writer che avevamo sentito durante la prima puntata per parlare del suo licenziamento che era stato effettuato da parte della piattaforma per cui lavorava, quindi da parte di Just Eat, 4 giorni dopo della chiamata allo sciopero del 22 gennaio nazionale, appunto, dei lavoratori di Just Eat organizzati dalla Sicobas. Parleremo con lui, appunto, e ci darà 2 aggiornamenti sul suo licenziamento, ma anche sulla situazione dei rider morti sul lavoro e incidenti che subiscono le persone che lavorano in questa categoria, e ci parlerà un po' della mobilitazione dell'8 e del 9 aprile. Poi parleremo un po' di aggiornamenti e news dal carcere, con un paio di aggiornamenti riguardo i compagni che erano stati arrestati il 16 marzo, e vi diremo di un'operazione che c'è stata il 31 marzo dove è stato arrestato un altro compagno anarchico. Faremo un salto a Corvetto, dove ci sono stati ancora una volta settimana scorsa gli sgomberi. Sempre rimanendo sul tema case, parleremo con un compagno riguardo l'iniziativa organizzata dall'Assemblea per la Sanatoria che c'è stata a Milano il 2 aprile. Avremo poi un contributo audio per parlare un po' di quello che è successo all'interno del carcere di Bussarsizio settimana scorsa. Passeremo appunto dal carcere per maggiorenni, tra virgolette, di Bussarsizio a quello del minorile. Faremo un collegamento con una compagna che ci spiegherà meglio come è andato il presidio sotto al carcere Beccaria minorile, appunto, di Milano, che si è tenuto ieri dalle ore 3 al parco di Via Mengoni. E infine faremo un collegamento con un compagno che ci spiegherà cosa è successo il 31 marzo in via Montebello durante insomma, l'iniziativa organizzata in tutta Italia in difesa dei diritti dei migranti e delle migranti. E infine termineremo la puntata come al solito con un'intervista musicale. Intervisteremo un gruppo, gli Straight Opposition, Pescara Hardcore dal 2004, che presenteranno il loro CD Path of Separation. Allora, iniziamo subito con un po' di musica. Ci sentiamo Hammerfall con Riders on the Storm. We'll be right back. Allora, torniamo in diretta con Cronache di Regime. Ricordiamo il numero al quale potete scriverci via SMS o via Telegram, è il 351 55 79 698. Potete scriverci poi anche direttamente sulla pagina Facebook di Cronache di Regime o sulla pagina Instagram, e potete comunicare con noi anche tramite email. Potete scrivere le mail a cronacheediregime@autistici.org. Allora, come detto, iniziamo con la prima intervista e sentiamo questo compagno che avevamo sentito anche durante la prima puntata del 7 febbraio, in cui parlavamo del suo licenziamento, questo compagno Ryder. Ciao, pronto, ci senti? Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Ciao, benvenuto a Cronache di Regime. Allora, prima di parlare insomma di quello che è successo insomma a Milano e Genova riguardo i rider, nello specifico i due rider morti, il rider a Genova e il rider investito a Milano, volevamo ripartire un po' dalla chiacchierata che ci eravamo fatti l'altra volta riguardo il tuo licenziamento da parte di Just Eat. Se hai voglia di darci un paio di aggiornamenti, così riprendiamo il filo da lì. Allora, io innanzitutto, vabbè, ci tengo a ribadire che mi chiamo Marco Montagna, così in modo tale che si sappia chi sono, e che comunque sono un delegato Sicobas sulla città di Monza. Detto questo, abbiamo con il mio avvocato abbiamo impugnato il licenziamento, abbiamo mandato una missiva alla società. La società Just Eat ovviamente resta ferma sulle sue supposizioni, e tra altre cose non ha benché minimo dato un cenno di risposta, giusto per correttezza, al mio avvocato, confermando o smentendo i dati riportati nella missiva, cioè nel senso che io ovviamente ho sottolineato che quello che loro mi contestano non è veritiero, e loro per tutta risposta non hanno provveduto a risposta, e questo di fatto poi ci vedrà poi nei prossimi mesi doverci recare presso il giudice e far valere le mie ragioni. Ed è vergognoso, ritengo vergognosa la parte di una società arrivare fino a questo punto, anche perché fondamentalmente, come avevo sottolineato nella precedente puntata, lo sciopero è stato indetto per tutta una serie di cose, ivi compresi i recenti fatti che di fatto hanno portato poi a morti, incidenti e tutta una serie di cose. Ok, perfetto, quindi l'avvertenza sindacale continua e non si arretra di un metro riguardo a questo. E niente, noi ti chiamavamo anche perché sappiamo che ci sarà questa mobilitazione indetta appunto dai Sicobas a livello nazionale l'8 e il 9 aprile per la categoria dei rider, ma anche perché insomma nell'ultima mesata ci sono state un paio di morti. Allora, diciamo che a seguito dei fatti recentemente accaduti, quindi che sono di un'entità gravissima, perché di fatto hanno portato il decesso di un collega, l'incidente di un altro qua su Milano, e insomma ci sono tantissimi fatti. Io personalmente, apro una parentesi, ho constatato un mese e mezzo fa che, recandomi presso l'SP di Repubblica, ho trovato un capitano che era vestito durante il turno notturno completamente di nero, senza i DPI addosso, e che non conosce la vecchia 626 o l'8108, che è stato sostituito, appunto si chiama decreto sulla sicurezza. Le società di food delivery, solo adesso Just Eat sta consegnando i cosiddetti DPI. Va sottolineato che DPI significa l'acronimo di dispositivi di protezione individuale, e per chi consegna su strada devono avere un'omologazione in classe 2 e in classe 3. Just Eat si sta attivando adesso a random. Abbiamo ancora tantissimi colleghi che sono sprovvisti dei DPI, che sono sprovvisti delle nozioni di base, perché va sottolineato, come ho detto, che è impensabile che un capitano che ricopre comunque una mansione superiore alla mia sia vestito in bicicletta tutto nero, e che a fronte dell'osservazione da me riportata mi dica: no, ma io ho la borsa non è un DP. E appunto, come ho sottolineato e ribadisco, le società, apro una parentesi, io a causa del licenziamento ultimamente sto collaborando con Uber Eats, che è un'altra delle quattro, diciamo, leader qua sulla città di Milano, Monza e dintorni, che non prevede la consegna di nessun DPI, nessun dispositivo di protezione. E questo è vergognoso, perché comunque c'è un decreto e il decreto dovrebbe essere osservato da tutti quanti. Sì, al di là del fatto che debba essere osservato il decreto, proprio per una questione di sicurezza. Di sicurezza, lavoro, esatto. Per le persone, esatto, che lavorano. Esatto, e infatti va sottolineato, come ho fatto l'esempio, che abbiamo tantissimi rider che lavorano nel turno notturno, e va ricordato che stiamo entrando adesso in un periodo di luce, ma fino a qualche giorno fa eravamo ancora con la vecchia ora, e che alle 18 fa completamente buio, ed è impensabile che un collaboratore, che poi collaboratore non è, perché c'è ancora da porre in essere questa questione che va chiarita di fronte poi a tutta una serie di cose, lavori consegnando in bicicletta o in scooter senza indumenti ad alta visibilità. Ed è per quello che noi Sicobas abbiamo sollevato e continueremo a sollevare tutta una serie di nefandezze, non ultimo quella di aver proclamato uno sciopero a livello nazionale, perché siamo stanchi di tutte queste angherie che giornalmente ci vedono protagonisti, perché c'è un dispositivo di protezione individuale, il cosiddetto gilet può costare a una società 3 o 4 euro, e poi però dopo si piange quando si leggono o si apprendono notizie di colleghi che muoiono o vengono mutilati, piuttosto che, insomma, tutta una serie di cose. E, apro una parentesi, le società Glovo, Deliveroo e Uber Eats premono per mantenere in essere un accordo che resta vergognoso e di fatto porta tutti i rider in forza a queste piattaforme a dover accelerare per poter portare a casa quello che dovrebbe essere, a mio avviso, uno stipendio equo che possa garantire, come sancito dalla Costituzione, una vita dignitosa. Perché di fatto queste società che ho menzionato pagano fondamentalmente ancora ottimo, addirittura Glovo paga 1,99 a consegna. Come fa un rider a poter vivere dignitosamente con una consegna da 1,99? E quindi questo porta tantissimi a non rispettare quello che sono le norme del codice della strada. Ok, quindi rilanciamo, insomma, l'iniziativa che ci sarà in tutta Italia l'8-9 aprile. Esatto, l'iniziativa è assolutamente di coinvolgere tutti i rider a protestare per tutta una serie di cose. Apro una parentesi, voglio sottolineare anche questo dato perché mi sembra assolutamente da evidenziare. Come tutti ben sappiamo, la benzina è aumentata di 30-40 centesimi ultimamente. Just Eat ha sì firmato un accordo con i confederali che di fatto ci ha visto un aumento della retribuzione chilometrica di 2 centesimi scarsi, a fronte di un costo della benzina e comunque della vita di oltre 40 centesimi. Queste sono le sigle confederali, quindi noi di Sicobas abbiamo lanciato per questo weekend, non solo in Just Eat, ma di tutte le piattaforme, di aderire a questo sciopero al fine di porre fine a queste nefandezze, perché è vergognoso che si continui a fare il bello e cattivo tempo ai danni del lavoratore. Perfetto, e mentre preparavamo l'intervista poi mi avevi mandato un articolo dove si riconosceva il danno dell'INAIL a un rider che, insomma, veniva sfregiato mentre difendeva una ragazza aggredita, quindi almeno ogni tanto arrivano delle semi buone notizie, se così possiamo dirla, anche per chi lavora in strada e soprattutto per chi si mette di mezzo in strada a certe situazioni. Va bene, rilanciamo allora l'iniziativa e la mobilitazione dell'8 e del 9 aprile in tutte le città a livello nazionale. Sì, vai. Esatto, sì, l'iniziativa è quella di aderire a uno sciopero. Abbiamo voluto fare un volantino evitando di apporre la nostra sigla affinché qualsiasi rider, anche che non simpatizzi per i Sicobas, che simpatizzi per altre sigle, possa aderire e possa convenire con noi che oggi più che mai serve una coesione al fine di riportare un quantomeno tutta una serie di migliorie finalizzate poi a rendere questo lavoro un lavoro a tutti gli effetti, perché si è sempre parlato di questo lavoro come un lavoretto non lo è, l'avevo già detto precedentemente, è un lavoro per tanti, tantissimi con questo lavoro ci mantengono una famiglia. Perfetto, dai, grazie mille, magari ci sentiremo più in là, sperando di parlare di cose ogni tanto un pelo più propositive. E niente, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per la disponibilità come al solito. Grazie a voi ragazzi. Perfetto, ciao ciao, a presto. Ciao. Ok, abbiamo appunto, ci siamo fatti appunto una chiacchierata, rilanciamo anche noi l'appuntamento dell'8 e il 9 aprile, giornate di mobilitazione, sciopero rider in tutte le città, contro sfruttamento, caro benzina e morti sul lavoro, per contratto, salario, salute, sicurezza, diritti e dignità. Ora ci sentiamo un po' di musica e ci sentiamo i Wolfpack, In Darkness You Feel No Regrets. Allora, 19:25, torniamo in diretta con Cronache di Regime, siamo nel solito spazio dove proviamo a darvi un po' di aggiornamenti dal news e news dal mondo delle carceri. Dopo avremo anche un contributo audio per parlare più nello specifico della situazione che si è creata a Busto Arsizio settimana scorsa e faremo un collegamento con una compagna per parlare dell'iniziativa che si è tenuta al carcere minorile Beccaria di Milano ieri pomeriggio. Dalle 3 c'è stato appunto questo presidio al parchetto di via Mengoni. Allora, partiamo però un attimo da alcune situazioni repressive nei confronti di compagni anarchici e compagne anarchiche di cui vi avevamo parlato anche nelle settimane precedenti. Il 16 marzo erano stati arrestati un compagno ed una compagna con l'accusa di detenzione e fabbricazione di porto d'arma da guerra e materiale esplodente, su indagine da parte della procura di Genova, coadiuvata dalla Digos e De Ross insieme, e questi due compagni erano stati arrestati a Roma. Al momento sia Gianluca che Evelyn si trovano agli arresti domiciliari. È notizia invece di pochi giorni fa, del 31 marzo, che è stato arrestato un compagno a Torino, all'interno di un'operazione che, secondo i mass media di regime, purtroppo abbiamo solo queste informazioni al momento e vi riportiamo queste, di un'operazione chiamata Misantropia. Il compagno è stato accusato di associazione con finalità di terrorismo, perché diciamo è ritenuto responsabile di gestire un sito che fa riferimento al gruppo ITS individualista Stendiendo allo Salvage, un gruppo militante di compagni e compagne anarchici ed anarchiche messicano. Insomma, niente, questo compagno al momento si trova recluso, non sappiamo dove, purtroppo non si hanno molte informazioni a riguardo, però ci tenevamo a darvi questa informazione. Solidarietà comunque al compagno arrestato. Dal mondo delle carceri invece vi parliamo di una serie di aggressioni che ci sono state nei confronti dei secondini. Ogni tanto sono anche i secondini a prenderci un po' di mazzate, diciamo che a noi questa cosa va bene e speriamo che continuino a prenderle, anche se poi i detenuti, insomma, che aggrediscono non si sa mai effettivamente che fine fanno. Allora partiamo da Rean Irpino, dove a quanto pare un detenuto ha iniziato prima a distruggere la cella e poi dopo è riuscito a tenere in scacco più o meno 10 secondini che non riuscivano a contenerlo e hanno dovuto addirittura chiamare altri colleghi che non erano in servizio. Lui ha provato ad opporsi e, secondo i mass media di regime, ha tirato verso le forze del disordine all'interno delle carceri diverse bombolette di gas forate, probabilmente con degli stuzzicadenti, e poi accese con gli accendini. Questi diventano dei veri e propri ordigni rudimentali, non sono esplosi, sempre stando secondo i giornali. Insomma, è riuscito a tenere in scacco un'intera non diciamo un'intera sezione, perché probabilmente i detenuti non penso che erano contrari a ciò che stesse avvenendo, ma svariati, diciamo, secondini, circa una quindicina. Questo è accaduto nel carcere di Ariano Irpino. Invece a Marassi un detenuto ha scagliato un estintore nei confronti di alcuni agenti penitenziari. Loro dicono che sono rimasti feriti in tre e subito il SAP, che è il sindacato della polizia penitenziaria, si piange addosso chiedendo e lanciando un appello a gran voce: dateci il taser. Questa settimana, durante la rassegna stampa per cercare delle informazioni, in altre svariate carceri hanno richiesto i secondini il taser, anche a Foggia e non solo. A quanto pare anche a Parma un detenuto ha aggredito un secondino. A Regina Coeli nel Lazio negli ultimi giorni ci sono stati un paio di episodi in cui dei detenuti hanno appiccato fuoco alle loro celle, ultima la notizia di oggi, quindi due episodi in 4 giorni. Diciamo che la situazione nelle carceri è sempre incandescente, e rimaniamo in zona Lombardia, poi parleremo, come detto, più in là di Bussarsizio. A Monza un detenuto ha aggredito, secondo sempre i mass media di regime, da solo, dopo aver dato fuoco alla cella, 5 secondini. I media locali ci tengono a precisare che le forze dell'ordine sono andate all'ospedale San Gerardo con prognosi di 7 giorni per 2 agenti e un sottufficiale, mentre per gli altri 2 agenti 4 giorni. Ci terremo a sottolineare che nel momento dei referti anche gli ospedali e i medici e gli infermieri che sono in quel momento in pronto soccorso sono complici comunque dei passaggi che avvengono, perché molte volte i secondini picchiano i detenuti, poi si vanno a far refertare, quindi loro, che non hanno neanche un segno addosso, riescono a prendersi 10-20 giorni solo perché sono forze dell'ordine, o meglio del disordine. E quindi la complicità va anche al personale sanitario, sia quello che lavora all'interno delle carceri, che nella maggior parte dei casi non referta i passaggi che i detenuti e le detenute subiscono, ma anche insomma chi lavora nei pronto soccorsi. che quando si presentano, insomma, sbirri, il referto e le prognosi sono sempre esagerate e ben gonfiate. Va bene, ora ci sentiamo un altro po' di musica, ci sentiamo gli MCK e nello specifico Josh degli MCK con Corvetto E, perché dopo andremo a parlare appunto di Corvetto e ancora una volta degli sgomberi che ci sono stati nel quartiere periferico a sud-est di Milano. Corvetto E. Siamo in via del 500, zona Corvetto. È qui che ieri sera si è svolta una rissa che ha coinvolto quattro testimoni, 20 persone che sarebbero 20 ragazzi del quartiere che, una volta saputo della rissa, sono scesi in strada e hanno cercato di bloccare la rissa. Tempo fa ho scritto una canzone. Non si intitolava Corvetto, ma era comunque inerente alla zona. Colpa mia, troppo forte. Visto che vi interessa la periferia, vi racconto com'è una delle tante. Vi racconto cos'è per me Corvetto, ok? Corvetto è la periferia, la vita marcia s'avvia, da uffici illeciti, ricchi come a Scampia. La polizia, l'infamità di un imborghese, una spiacevole spia, sotto il portone della zia, d'arresto esatto. Corvetto è lo sguardo di un indocente che osserva disagiato assente, ciò che lo rende racconto producente. Paura di un temporale, nel cuore di uno speciale, il dubbio di essere buono, pulendo il sangue dall'oro. Corvetto è, arresti sul giornale, notizie al televisore, che poste da un giornalista fanno aumentare le accuse. Armi alla Nicolas Cage, io Boston George per i miei, e fai di assurde senza testa, professore, un esempio. Oye, che se si chiama Rubà? Con orientamento. C-O-R-V-E-T-T-O, sono ridotto, diventata borghesia, soltanto lo C-O-R-V-E-T-T-O, borghesia, soltanto lo Corvetto è la povertà, amici al campo, fu comprare municipale, finanza, carabinieri, a smucare mille storie dopo un'altra, insolita rumba di gente guasta, onesta, ma dentro basta. Corvetto è fumo, bamba e Maria, coca e Bacardi e follia, prego Dio la vita che così non sia, la scimmia sulla spalla, gli zombie che la notte girano, per una busta ci si scanna, manco scaria a sgrana. Corvetto è la mia gente rispettosa e non sempre, ma con veri principi e dolori, all'are serse e serpi in seno aggressivi con chi osa sempre, tecniche di difesa da cischi, è un tatuaggio permanente. C-O-R-V-E-T-T-O, C-O-R-V-E-T-T-O, C-O-R-V-E-T-T-O, sono ridotto, niente borghesia, soltanto lo C-O-R-V-E-T-T-O, C-O-R-V-E-T-T-O, C-O-R-V-E-T-T-O, sono ridotto, niente borghesia, soltanto lo scoperto. Seconda generazione che io accetto con amore, ma se giri l'angolo qui lanciano certi che al cuore, la pura pazzia, sangue che scorre nelle vene, a conti fatti tutti uguali, resta impresso nella via. Corvetto è la disperazione, l'amico che ti muore, mani alla testa, scoppia in cerca di soluzione. Non c'è più luce qua attorno, c'è solo un cuore che duole, e di una vita francamente non importa le persone. Corvetto è la soluzione, forza motrice che non muore, la mia famiglia, il mio vero unico nome. Corvetto per me è Ciscona, Ghost, S1, Fabietto, Pollo, Cima, Ira, Tyson, Milano, Criminal. C-O-R-V-E-T-T-O, C-O-R-V-E-T-T-O, C-O-R-V-E-T-T-O, sono ridotto, niente borghesia, soltanto lo C-O-R-V-E-T-T-O, C-O-R-V-E-T-T-O, C-O-R-V-E-T-T-O, sono ridotto, niente borghesia, soltanto lo sto. La piazzale è organizzato e più gioca, franca, quartiere sempre in arrivo. Allungate sedie che volano, tavolini, stanno sempre davanti al portone appoggiati. Pre a rischio, Corvetto. Corvetto. Allora, 19.36, torniamo in diretta con Cronache di Regime. Abbiamo sentito Corvetto E di Josh degli MCK, della Milano Criminal Clan, appunto un abitante e occupante storico di Corvetto, e andiamo appunto in Corvetto per parlare un po' dell'ennesimo sgombro e della situazione che però si è creata questa volta risposta allo sgombro, e c'è stata una risposta, devo dire, abbastanza interessante. Ne parliamo con una compagna. Ciao, ci senti? Ciao, vi sento. Ciao, buonasera. Ciao e benvenuta e benvenuta a Cronache di Regime. Allora, grazie. Niente, se volevamo intanto fare una panoramica generale riguardo insomma la situazione dei sgomberi a Milano in Corvetto e poi andiamo a parlare di quello che è successo settimana scorsa. Ok. Allora, per quanto riguarda gli sgomberi in questa città, in generale, in particolare in Corvetto, in realtà non si sono mai fermati, nel senso conta che sono stati fatti degli sgomberi anche durante il lockdown, chiaramente senza le camionette, quindi senza la forza pubblica, in modo che riuscissero a passare un po' in sordina, di modo che gli abitanti non si allarmassero particolarmente, però diciamo che ci sono dei momenti in cui spingono di più, dei momenti che spingono di meno, ma questa cosa è una costante purtroppo della nostra vita. Dall'inizio dell'anno a questa parte il ritmo si è abbastanza serragliato, nel senso che siamo arrivati a dei periodi in cui avevamo uno sgombero a settimana. La cosa che è cambiata è che adesso cercano di fare due case almeno per volta, come è successo durante quest'ultimo sgombero e quello precedente ancora. Di solito nella stessa scala, ma non è detto. Questo probabilmente per ottimizzare i tempi, immagino anche i soldi, immagino che abbiano della fretta rispetto allo sgomberare le case per via della riqualificazione. Se vuoi ti racconto com'è andata mercoledì. Sì, appunto. Sì, sì, che appunto a quanto pare mercoledì scorso c'è stato uno sgombero di un'intera scala nella misura in cui in quella scala c'erano 2/3 appartamenti occupati e quindi sono stati sgomberati tutti insieme. Esatto. Allora, mercoledì è andata come sempre, quindi si sono presentate le camionette intorno alle 8:30 del mattino, stiamo parlando del civico 16 di via del 500. Hanno bussato a 3 case, ne hanno sgomberate 2, che erano tutte le occupazioni di quel pianerottolo praticamente. Lo sgombero in sé è stato abbastanza rapido, anche perché, almeno per quanto riguarda una delle due case, non hanno permesso alla persona occupante di scegliere cosa prendere e cosa mandare in deposito. Praticamente gli operai e gli sbirri si sono presi la libertà di fare loro gli scatoloni con i suoi effetti personali e poi l'hanno cacciato. Una volta svuotate le case, gli operai hanno montato le porte arancioni, che sono queste porte che a volte montano al posto delle lamiere perché sono dotate di serratura, che però a differenza delle normali blindate sono allarmate, non possono essere smontate dall'interno e quindi adesso stanno montando quasi sempre questo tipo di porte. Allora, la mattina dello sgombero c'è stato un capannello di gente che come al solito si raduna sotto allo sgombero, mentre in contemporanea un altro gruppo di persone si è trovato in un altro punto, un po' più lontano rispetto a quel civico, e con le biciclette hanno fatto un giro per le vie del quartiere appena fuori, bloccando un po' il traffico, raccontando al megafono che cosa stava accadendo, e dopodiché si sono ricongiunti con il piccolo presidietto che si era venuto a creare. Nei giorni successivi gli abitanti, o meglio le abitanti, hanno deciso, perché sono quasi tutte donne, hanno deciso di chiamare un momento in piazzale Corvetto alle 16:30, una volta che i bambini uscivano da scuola. Si è chitata una piccola merenda per i bambini che appunto uscivano da scuola, si sono fatti un po' di interventi e poi si è deciso di partire per un piccolo giretto in quartiere. Quindi si è fatto il giro di piazzale Corvetto, si è presa via Polesina e da lì ce ne siamo andati un po' a spasso per il quartiere con le solite cose, gli striscioni, facendo dei cori, interventi al megafono in varie lingue. Dopo circa un'oretta ci siamo sciolti in piazza Ferrara, dove, vabbè, applauso alla puntualità, si è presentata la Digos in forze e ha deciso di chiamare una camionetta, assolutamente inutile dal momento che comunque avevamo fatto quello che volevamo per un'ora e ci stavamo scendendo. Questa è come è andata la giornata, le due giornate, insomma. Questa è una dinamica molto interessante, quella che si è creata, perché appunto il fatto che non ci sia stata una risposta nell'immediato, lo stesso giorno, ma anche semplicemente il giorno dopo, ha un po' spiazzato le forze dell'ordine, gli sbirri, che appunto sono arrivati un'ora dopo, quando non si aspettavano nulla, con una camionetta, giusto per cercare un po' di farsi vedere e prendersi un po' di insulti, immagino, esatto, dalla piazza. Va bene, niente, io volevo chiederti se magari c'erano delle iniziative previste o mobilitazioni future, o comunque in caso magari ci riaggiorniamo sperando di parlare anche di altro rispetto al quartiere, non solo di sgomberi. Allora, noi al momento non abbiamo delle iniziative programmate, ma appunto comunque ci siamo accorti che tra gli abitanti di questo quartiere c'è comunque una volontà di dare risposta agli sgombri, di farsi vedere come comunque una presenza che esiste in questo quartiere, quindi sicuramente vabbè, adesso in programma appunto non c'è nulla, ma se chiameremo qualcosa di pubblico sicuramente lo faremo sapere tramite i nostri social, in particolare la nostra pagina Facebook, si chiama Corvetto Odia, e quindi niente, se volete seguirci ci aggiorniamo lì. E il Corvetto resiste come sempre a più o meno una decina d'anni. Va bene, dai, niente, esatto. Ti ringraziamo, ti salutiamo e ci sentiamo prossimamente. Grazie a te, buona puntata. Perfetto, grazie a te, ciao, buona serata. Ciao. Allora, abbiamo appunto sentito l'intervento di questa compagna. Ora ci sentiamo invece un pezzo di MC Caserio, e scusate perché non riesco un attimo a ritrovarlo, ma l'avevo scaricato appositamente per la puntata. Appunto ci sentiamo MC Caserio, Fit Scalpel, Nessuno Senza Casa, e appunto per continuare a parlare di occupazioni, sgomberi e case, perché dopo sentiremo un compagno che ci racconterà un po' com'è andata la giornata, l'iniziativa di sabato 2 aprile organizzata dall'Assemblea per la Sanatoria a Milano. Ora ci sentiamo MC Caserio. MC Caserio, Skyway, ma è di nessuno senza casa. Ed ogni scombro sarà una barricata. Fanculo il piano casa, i Renzi lupi. Ad ogni scombro sarà una barricata. Mai più nessuno senza casa. Occupazione abitativa. E se la casa è il diritto, l'affitto una rapina. Ad ogni scombro sarà una barricata. Mai più nessuno senza casa, occupazione abitativa. E se la casa è un diritto, l'affitto una rapina. La casa è un diritto in nome della ragione. Poi lo trovo scritto anche sulla Costituzione. Non resto per strada, occupo una casa. Occupare è giusto e solo la lotta paga. Anche se lavori qui l'affitto è una rapina. Ci siamo organizzati, occupazione abitativa. Non serve ci diciamo a fine mese non si arriva. Serve che ci organizziamo per creare l'alternativa. Siamo l'alternativa, la risposta alla deriva democratica. Che in pratica ci tassa anche la vita. Non ci salverà lo Stato e la sua azione repressiva. Oh, prendi la mira, popoli meticci, fuori dagli impicci, occupo gli sfitti, fuga dagli affitti, contro i tuoi profitti che ci mandano gli sfratti, ci volete zitti ma ci avrete più compatti. Ad ogni sgombro sarà una barricata, mai più nessuno senza casa, occupazione abitativa, e se la casa è un diritto l'affitto è una rapina. Ad ogni sgombro sarà una barricata, mai più nessuno senza casa, occupazione abitativa. Et c'est la case, le diritto, la fuite ou la rapine. Des logements à manger, un toit pour tous danger. Déranger le pouvoir, les fusillés se venger. S'arranger, résister, s'organiser, lutter. Un seul cri de victoire, du taf et des papiers. Collectif de banlieue, du plus jeune au plus vieux. Mentalité de chacun, la morale de teigneux. Taiseux, haineux, rien de paresseux. La pauvreté, la fierté, les riches sont les crasseux. Ça casse, ça occupe, ça pousse et ça squat, fait le ménage et si besoin ça braque. Ça détraque, ça matraque, insulté de macaque. Ça se bat dans les tranchées, juste après le pivot. Les années passent, le combat continue. Le souvenir des détenus, la mémoire des vaincus. El rap militante est al paso. En Italie, dans le 9-3, en passant par El Paso. Ad ogni sgombro sarà una barricata. Mai più nessuno senza casa. Occupazione abitativa. E se la casa è un diritto, l'affitto una rapina. Ad ogni sgombro sarà una barricata. Mai più nessuno senza casa, occupazione abitativa, e se la casa è il diritto, l'affitto una rapina. MC Caserio, Skyfair, mai più nessuno senza casa. Nessuno senza casa non è un motto, un detto. Se sono senza casa me la prendo. Nessuno senza casa, nessuno senza un tetto. Non aspetto la risposta inesistente del governo. Per risponderci ci sgomberi, ci trovi sopra il tetto. Salutaci il prefetto, ci vogliono serrati, asserragliati dentro il ghetto, ma ci prendiamo tutto in un momento. Celleri, sfrattano donne e bambini, restituiscono le case in mano a luridi strozzini. Fomentiamo la rivolta dai cortili, mentre contano i quattrini dentro case signorili. Io sono un sottoproletario, un operaio della strada. Fanculo il piano casa, abbiamo già da tempo il piano. Proprietario assenteista, merda di un palazzinaro. Se lasci la casa vuota, la occupiamo. Ad ogni sgombro sarà una barricata, ma è qui nessuno senza casa. Occupazione abitativa, e se la casa è un diritto, l'affitto è una rapina. Ad ogni sgombro sarà una barricata, ma è qui nessuno senza casa. Occupazione abitativa, e se la casa è un diritto, l'affitto è una rapina. Ad ogni sgombro sarà una barricata, ma è qui nessuno senza casa. Occupazione abitativa, e se la casa è un diritto, l'affitto è una rapina. Ad ogni sgombro sarà una barricata, ma è qui nessuno senza casa. Occupazione abitativa, e se la casa è un diritto, l'affitto. Allora, torniamo in diretta con Cronache di Regime. Ora appunto ci facciamo una chiacchierata con il compagno che ci racconterà un po' come è andata l'iniziativa di sabato riguardo organizzata dall'Assemblea per la Sanatoria. Ciao, pronto, ci senti? Sì, ti sento. Okay. Non benissimo, ma ti sento. Ok, quello purtroppo un po' lontano, i nostri mezzi sì, non sono all'altezza. Dai, comunque... Va bene. Ok, ciao, benvenuto a Cronache di Regime. Allora, niente, prima di parlare magari dell'iniziativa che c'è stata il 2 aprile, se abbiamo anche fatto un'intervista prima con una compagna che ci spiegava dello sgombero che c'è stato sabato in Corvetto, e se vogliamo continuare su questo filone della casa, se hai voglia di dirci un po' com'è la situazione in generale a Milano, appunto, su case, occupazioni, sgomberi, richieste di sanatorie, eccetera. Sì, va bene. Allora, ciao a tutte e a tutti intanto. Vi racconto brevemente la giornata di sabato 2 aprile. In pratica questa giornata è stata una giornata che si è caratterizzata a livello regionale. Infatti nella stessa giornata di sabato ci sono state due iniziative in contemporanea, una a Milano appunto fatta davanti al Comune di Milano e a Brescia davanti all'ufficio vendite immobiliari, mentre a Pavia si è tenuta la mattina sempre davanti al Comune alle ore 10. Il contenuto dell'iniziativa praticamente il blocco permanente di sfratti, sgomberi e pignoramenti, il blocco della svendita del patrimonio immobiliare pubblico, l'assegnazione delle case popolari e la manutenzione delle case popolari, la sanatoria delle occupazioni, il diritto alla residenza a tutte e a tutti, cancellando l'articolo 5 della legge Renzi-Lupi. Questa iniziativa è stata costruita attraverso varie assemblee cittadine alle quali hanno partecipato comitati della città di Milano, ma appunto anche comitati di altre città, come il collettivo autonomo gardesano, il magazzino 47 che hanno organizzato l'iniziativa bresciana e l'assemblea di lotta per la casa, per il diritto alla casa di Pavia. Questa è un po' l'ossatura e l'impostazione di quella giornata. Per quanto riguarda la giornata milanese, secondo me è stata abbastanza positiva, in quanto abbiamo fatto un presidio che è partito come presidio davanti al Comune e si è concluso con una manifestazione che è arrivata fin sotto la prefettura. Perché il Comune e la prefettura? Perché secondo noi Comune e Prefettura sono responsabili diretti delle politiche sulla casa. Sappiamo bene tutti che attraverso tavoli così per la sicurezza, per l'ordine e la sicurezza pubblica, di fatto quei tavoli sono il luogo dove vengono pianificati gli sgomberi, che tutti sappiamo purtroppo anche in tempi di pandemia hanno continuato a verificarsi nella città di Milano in diversi quartieri. Per cui per questi motivi abbiamo pensato di portare la mobilitazione, la protesta fin sotto questi palazzi per rivendicare che appunto la casa, l'abitare è un diritto e non una merce sulla quale speculare. Visto che comunque in questa città, ribadire appunto ancora di più il concetto davanti al comune, l'emergenza abitativa purtroppo questa città ormai la vive da decenni e le giunte di destra e di sinistra che si sono succedute hanno praticamente sul tema casa, sul tema abitare, hanno tenuto purtroppo il medesimo comportamento, sgomberare e non assegnare le case popolari e favorire esplicitamente la riqualificazione cosiddetta che prevede l'espulsione degli abitanti dei vari quartieri, occupanti e non, no? Per fare spazio a quartieri residenziali dove ci possono abitare solo chi si può permettere 1000 euro al mese. Per cui giunta di destra e giunta di sinistra, per quanto riguarda il tema dell'abitare, sono sicuramente a favore della speculazione e non di un diritto che dovrebbe essere di tutti e tutti. Ok, perfetto, sei stato abbastanza esaustivo, però ti volevo chiedere se comunque ci sono altre iniziative future. Mi pare ci sia appunto dopodomani un presidio fuori al tribunale, vero? Sì, è domani il presidio, è dopodomani il 6, vero? Scusa, hai ragione. Il 6 aprile dalle ore 10:30 ci sarà un presidio davanti al tribunale, un presidio a sostegno, per sostenere e portare la nostra solidarietà a dei compagni che sono processati dopo per dei fatti avvenuti nel 2012. Nel 2012 in tanti eravamo andati a portare la solidarietà a delle famiglie di Via Nera che venivano sgomberate, ecco, uno dei tanti quartieri dove gli sgomberi sono stati funzionali alla cosiddetta riqualificazione e privatizzazione di fatto del patrimonio immobiliare pubblico. Dicevo, domattina ci sarà l'udienza, la seconda, e probabilmente anche la sentenza a carico di questi compagni, che l'unica colpa che hanno è stata quella di appunto di portare solidarietà a delle famiglie che venivano sgomberate. La giornata di domani comincia con una colazione antisgombero in via Gola al cuore in Gola dalle 8:30, per poi partire tutti insieme e andare in tribunale appunto a portare la solidarietà a questi compagni. L'iniziativa di domani, la colazione antisgombero di domani, fa parte di una serie di iniziative che nel quartiere ticinese si sono tenute nell'ultimo periodo. Come tutti sapete, il quartiere ticinese è uno di quelli, insieme al Corvetto, San Siro, Barona, Chiesa Rossa, sono stati quartieri investiti nell'ultimo periodo, appunto, nonostante la pandemia, gli sgomberi comunque che si sono svolti. Dicevo, nel ticinese si è avuto nell'ultimo periodo, a fronte di una serie di sgomberi che si sono verificati, inseriti nel cosiddetto piano per fatti dalla prefettura, nel cosiddetto piano e tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, si sono verificati una serie di sgomberi, però c'è stata comunque la capacità di rilanciare all'interno del quartiere una serie di iniziative a sostegno e in solidarietà alle occupazioni, una serie di iniziative che hanno consistito di fatto di una presenza in strada con pranzi solidali, graffiti, spettacoli e colazione antisgombero, appunto, che si tendono una volta alla settimana in via Gola. Ricordo a tutti l'appuntamento per domattina dalle 8:30 colazione antigombero e poi partiamo tutti insieme da Via Gola per andare davanti al tribunale a portare la nostra solidarietà a quei compagni che vengono processati appunto per essersi opposti a uno sgombero nel 2012. Sì. Ribadiamo che le lotte non si processano e solidarietà e sostegno ai compagni colpiti dalla repressione. Sì, scusami se ti correggo, mercoledì mattina, non domani mattina. Mercoledì mattina, mercoledì sì, mattina. Scusa, mercoledì 6 aprile. Sì, riguardo... Ore 10:30. Appunto questo processo mi aggiungo io al volo dicendo che comunque sta iniziando un altro processo a carico delle persone solidali che nel 2014 si sono presentate in via Salomone nel complesso delle tre case appunto di via Salomone per provare ad opporsi o comunque a resistere ad uno sgombero e quindi sta iniziando questo processo denominato della Trecca per alcuni compagni e compagne che vedrà l'udienza preliminare il 26 aprile. Poi volevamo anche dire che il processo per l'associazione a delinquere finalizzata all'occupazione di case e non solo, associazione a delinquere semplice, quindi 4 e 16, per i compagni e le compagne di Giambellino sta andando avanti e a breve arriverà a termine. Anche più in là ci saranno delle iniziative, comunque benefit, che probabilmente usciranno con una locandina unificata appunto per rilanciare la solidarietà sia ai compagni che si sono opposti allo sgombero di Via Nera, per i compagni e le compagne che si sono opposti allo sgombero in Via Salomone e anche per i compagni appunto sotto attacco repressivo di Giambellino. Va bene, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per l'intervista e ci sentiamo presto. Ciao, ciao a tutte e tutti. Perfetto, ora ci sentiamo un pezzo di un compagno del Varesotto e andiamo a introdurre insomma, l'argomentazione di cui accennavamo già settimana scorsa quando abbiamo letto il comunicato scritto dai compagni e delle compagne di Bussarsizio riguardo i fatti che c'erano stati in carcere appunto in quel maledetto carcere settimana scorsa. Una rivolta da parte dei detenuti. Ora ci sentiamo quello che ci pare e poi proviamo a sentirci questo contributo audio con tutte le difficoltà del caso, perché proveremo a fare un montaggio in diretta. Quello che ci pare. Quindi il patto sarà la prima cosa a diventare pubblica e il patto lo aprite voi, non io, ok? E quindi cominciate a prepararvi, happening, 2 giorni, 3 giorni, quello che vi serve, il muro si butta giù, ma lo buttate giù voi come ho fatto a Berlino. Perché alla fine, se volete riappropriarvi di un'area, aspetterete mica. Il lavoro nobilita e questa è una menzogna. Sono sempre solidale verso chi lotta per una casa o per una causa giusta. Un posto è di chi lo vive, non di chi lo compra. Contro state corruzione, mafia e religione. Voglio tags, feste, banchi d'autoproduzione. Vivi in guerra per morire in pace. Facciamo quello che ci piace, facciamo quello che ci pare. Balliamo a bordo fiume oppure dentro un capannone. Combattiamo senza indugio, fuck la tua repressione. DH e religione, il janky picchia mattone. Sotto cassa che mi spacca, brucio mezzo polmone. Il basso qua ti pesta come uno skin santifa. Sogna fuoco le galere, a brandelli ogni divisa. Prendiamoci le strade contro ogni autorità. Questa pasta burra e salvia al sapore di libertà. Aspettando il disco fra vi caccio roba nuova. Pensa quanto spacca il disco ascoltandoti sta strofa. Alla fine pare sempre la solita storia. Quando prendo il micro in mano vi rimando tutti a scuola. Un saluto ai compari da Viale Papiniano. Indovina appare chi è l'uomo nel mirino. Un pensiero ad ogni frate ingiustamente incarcerato. I miei testi solo bombe e prove per la Digos. Si sta in fora canetta, il socio che sgambetta. Spara zero su ste seghe come una mitraglietta. Contra lo conosci per la minchia e per le bombe. Una è troppo grande, le altre troppo grosse. Entro senza soldi, frate, esca tasche piene. Faccio gli atti con i soci, sempre attenti alle sirene. Non vogliamo i braccialetti che ti mettono quelli lì. Beccati da una foto, infamati da uno snitch. Siamo qui per la police, ma non ci riconosci. Tra la gente per la gente, con le lacrime agli occhi. Tra il fumo senza il fumo ci muoviamo come ombre. Pare agiamo col favore della notte. Si manda galera, caduto raleggea. Razzia o soraggi vopo, scarpe slacciato vera. New Balance sto diatora. Forse sbagliamo in moda, ma non sbagliamo a moda. Tra si manda galera, legge se o se ci bomba. La notte tra il 25 e il 26 marzo pare sia stata data inizialmente fuoco a una cella nella sezione psichiatrica del carcere di Busto Arsizio. A seguire altri detenuti hanno appiccato il fuoco, rendendo in questo modo l'intera sezione inagibile. Quello che sappiamo di questa sezione è che un anno fa, dopo le rivolte che ci furono a Varese e che resero inagibile l'intero carcere, sei persone vi vennero trasferite e messe in isolamento. Bevano. Questa sezione speciale comprende 7 celle, una singola per l'isolamento a cella liscia, 4 celle da 3-4 persone e 2 celle doppie. Premetto che ognuno è libero di fare la carcerazione come meglio crede, ma siamo in mezzo a gente che si riempie di metadone, gocce e cose strane dalla mattina alla sera, sembrano veramente dei zombie. C'è gente che sotto terapia ha cercato di impiccarsi, attaccandosi alla finestra, che si mangia il materasso di spugna, che si taglia e si fa il di gas delle bombole dei fornelli. Poi nascono litigi e problemi quotidiani. In sezione è normale che ci mandano, perché come capi promotori possiamo organizzare qualcosa anche qua. Quindi ci hanno messo in questo manicomio, dove è inutile dire che è una routine con gente che grida e chiama tutte le ore, giorno e notte. E proprio oggi ci hanno detto, vabbè, che dobbiamo fare almeno 4 mesi. Poi tra ottobre era invece uscito un articolo dove l'amministrazione penitenziaria chiedeva al ministro di giustizia pianza all'interno del carcere per far fronte a fasi cicliche di aumento della tensione e di aggressioni frequenti agli agenti di polizia, vista la situazione poco gestibile di sovraffollamento durante l'emergenza Covid. Ovviamente anche a questo giro il sindacato di polizia chiede un aumento del personale all'interno del carcere, dicendo che la situazione è sostenibile, che i secondini vengono aggrediti in continuazione e soprattutto, questo secondo me è veramente vomitevole, che all'interno di quella sezione ci sia un problema di gestione dovuto al fatto che la popolazione sia appunto una popolazione psichiatrica, e sarebbe interessante capire con quale criterio venga ritenuta tale, per cui appunto si tratta di dover gestire, e questo letteralmente, una banda di squilibrati che appiccano fuoco alle celle tanto per farlo, senza avere delle rivendicazioni di alcun tipo, ma solo perché appunto endogenamente criminali e folli, fuori di testa. Ma invece in questi giorni si sta svolgendo una propria vera campagna da parte della Lega Nord. Appunto c'è stata una visita da parte di un senatore e di un eurodeputato all'interno del carcere, in cui hanno dichiarato di quanto proprio strutturalmente, ma a livello nazionale anche, manchino posti nelle REMS, che chiudere i manicomi giudiziari sia stato un errore, perché appunto i detenuti più vivaci vengono trasferiti da un carcere all'altro, spostando il problema, e quindi in realtà a me, da questa dichiarazione, la cosa che mi sembra più interessante è che emerge proprio quanto poi di fatto queste sezioni vengano probabilmente utilizzate anche a scopo punitivo, come abbiamo detto anche poco fa per quanto riguarda quei detenuti che appunto furono spostati dal carcere di Varese. Poi di sicuro questa cosa andrebbe capita meglio, nel senso, è un'idea che ci si può fare molto vaga, per cui vabbè, probabilmente riusciremo a capire di più nel prossimo periodo. La narrazione infatti è quella di un paio di secondini intossicati dalle fiamme che eroicamente hanno salvato e scongiurato una tragedia per appunto evitando la morte dei detenuti delle celle adiacenti, che poi evidentemente sono gli stessi che hanno in realtà appiccato a seguire altri incendi. Beh, invece direi che noi abbiamo imparato, anche grazie ai detenuti che si sono spesi anni fa durante le rivolte, che i pestaggi da parte dei secondini sono la quotidianità, e che in realtà la violenza del carcere per lo più è vissuta dai detenuti, che vengono anche lasciati senza alcuna assistenza sanitaria, anche fino alla morte, nelle proprie celle. Ed è la stessa cosa che ci è stata ripetuta durante un saluto che abbiamo fatto la domenica successiva da un detenuto che è riuscito a comunicare con noi prima che arrivassero dei secondini con la mitraglietta a intimarci di andarcene. Dunque, il carcere di Busto purtroppo è difficilmente raggiungibile, nel senso che si trova all'interno di aree private, c'è un campo sportivo e dall'altra parte delle fabbriche, e quindi appunto avvicinarsi in realtà è abbastanza complicato, anche perché è un carcere molto piccolo, per cui praticamente ti tocca andare praticamente sotto le abitazioni dei secondini, e per questo motivo il tempo di intervento da parte loro è abbastanza rapido. Per questo motivo, vabbè, ci siamo avvicinati con un impianto già montato in un'auto, siamo entrati con la macchina e siamo riusciti a dire quel che siamo riusciti a dire nell'arco di una decina di minuti. Noi è da appunto l'anno scorso che non tornavamo più là sotto, ed è anche per lo stesso motivo dall'anno scorso che abbiamo perso contatti con i detenuti all'interno di quel carcere. Tutto questo si è riusciti a ripetere un po' di volte l'indirizzo a cui scrivere, per cui aspettiamo aggiornamenti e cerchiamo di capire tramite i pochi strumenti che abbiamo che cosa sia successo esattamente all'interno di quel carcere e quale sia la rivendicazione dei detenuti, la loro narrazione, e nel frattempo speriamo di poter uscire con una data per un'iniziativa davanti al carcere al più presto possibile. Proprio per i motivi che ho appena spiegato, sarebbe bene che venissero più persone possibili. Infatti metterci a fare un presidio significherebbe stare sulla strada provinciale, che comunque dista parecchio dalle finestre, e per questo motivo non ci consentirebbe di metterci in comunicazione con i detenuti. Diversamente sarebbe se fossimo in tanti, magari ci sarebbe la possibilità di fare dei tentativi. Quindi niente, ci teniamo aggiornati e ovviamente speriamo che più persone si sentano di partecipare e di darci una mano. Oggi con Federico rimane con Ludovic, a int tenga i compagni, a for manca un amico, maronna me, la voga de me, na capito che ca te io non rumè, mo fammi dormi, rimano con l'occhio, tengo l'invito, ti è venuto un caffè, una doccia, leggo il giornale, già sto in ritardo, cart o televisione, sto sorvegliato, mi sento una star. Tengo i proiettori puntati in quella pendola per farci sbar. Stanno pure i russi, i marrucchini e gli albanesi. Sto in da cella con la figlia di Roclan Re. Trasimmo in da galera, caduto la leggea. Nasce un soraggi fofo, scarpe slacciato per. Forse sbagliamo in moda, ma non sbagliamo a moda. Trasimmo in da galera, legge se o se ci fofo. Trasimmo in da galera, caduto la leggea. Nasce un soraggi fofo, scarpe slacciato per. Forse sbagliamo in moda, ma non sbagliamo a moda. Trasimmo in da galera, legge se o se ci fofo. Torniamo in diretta con Cronache di Regime. Ora proviamo a sentire appunto la compagna per parlare un po' di carcere minorile. Prima abbiamo sentito il contributo che ci hanno mandato i compagni e le compagne da Busto Arsizio. In sottofondo c'era Speranza con Givova, appunto la canzone che meglio rappresenta, diciamo, la situazione nelle carceri, soprattutto nelle sezioni comuni. Poi invece ora abbiamo sentito i Total Icars con Torturadores, che è un pezzo dedicato appunto agli sbirri che torturano nelle carceri e non solo. Allora, ciao, ci senti? Sì, vi sento. Ok, ciao, buonasera e benvenuta a Cronache di Regime. Ciao, grazie per avermi chiamato. Ok, niente, allora come detto prima volevamo parlare un po' della situazione dell'iniziativa che c'è stata ieri al carcere minorile Il Beccaria a Milano e se volevamo fare un po' un'introduzione generale riguardo la situazione che c'è lì in quel carcere e poi parliamo un po' di comando del presidio. Sì, certo. Allora, per quanto riguarda magari più in generale anche la detenzione minorile in Italia, diciamo che in generale si concentra più su modelli un po' più, un po' meno restrittivi del carcere, infatti se, per questo spesso non si guarda tanto al carcere minorile, ma si tende a andare nelle carceri per adulti a fare i presidi. Anche perché appunto ad oggi in Italia ci sono 316 detenuti nei carceri minorili a fronte invece di 13.600 giovani che vivono in comunità, e, appunto proprio perché diciamo che sono visti come ancora passibili di ravvedimento e quindi diciamo che la detenzione si concentra più per altre vie che la detenzione. La detenzione proprio in carcere di solito è prevista in casi in cui i ragazzi hanno condizioni economiche e sociali molto gravi, familiari o in caso di recidive. Di fatto poi diciamo che chi è rinchiuso in quel carcere, il Beccaria soprattutto, principalmente è più che altro per, non è tanto per scontare dei definitivi, ma sono trattenuti più in via cautelare. Per quanto riguarda proprio il Beccaria, attualmente ci sono 36 ragazzi rinchiusi dentro ed è stato in generale definito un carcere modello perché vanta questa gestione molto funzionante dal loro punto di vista. Tra enti pubblici e enti privati, questo apparentemente ovviamente per favorire il dialogo dentro fuori e per disegnarlo un po' come un posto salvifico per i ragazzi. Infatti quando si sente parlare del Beccaria si pensa sempre non so, ai corsi di musica, del reinserimento lavorativo, ovviamente fallimentari, di questo prete che gli fa quasi da padre. Di fatto è un carcere esattamente come tutti gli altri. E ieri i ragazzi infatti ci hanno restituito questa immagine del carcere minorile raccontandoci sì, dalle botte alla mancanza di spazi, alle minacce che i secondini gli fanno, esattamente come in tutte le altre carceri. Per quanto riguarda appunto la struttura è in fase di ristrutturazione dal 2005 e questo ovviamente ha causato una riduzione ulteriore degli spazi in cui si possono muovere i ragazzi. Una volta c'era anche una sezione femminile e adesso invece la sezione femminile si trova a Pontremoli. Questo vuol dire appunto che quando delle ragazze vengono affidate alla detenzione finiscono a Pontremoli, che comunque è anche abbastanza lontano dal loro luogo dove vivono. Questo, sì, scusa se ti interrompo, questo ce lo dicevamo anche settimana scorsa con la compagna che presentava appunto il presidio che in barba, tra virgolette, ad ogni norma legislativa riguardo il fatto che i detenuti debbano stare in un raggio chilometrico abbastanza vicino rispetto ai propri familiari o ai propri cari o comunque con chi, tra virgolette, hanno deciso di fare colloquio, eccetera. E nel caso dei minorenni questa norma, cioè, si va a restringere a livello regionale. Insomma, il fatto che questo, cioè, la sezione minorile della Lombardia sia appunto a Pontremoli è tutto un dire. Sì, certo, poi appunto sappiamo anche che in teoria appunto per esempio la capienza massima adesso del Beccaria sarebbero 38 persone e quindi alla 39esima i ragazzi vengono trasferiti in teoria negli istituti più vicini. Di fatto, per esperienze, per conoscenze, sappiamo che per esempio nell'estate scorsa sono stati alcuni da Milano sono stati trasferiti a Bari, Napoli, in Sicilia, che spezza ancora di più e amplifica l'allontanamento dai propri affetti. E per esempio anche per conseguenza del Covid il reparto dei nuovi giunti attualmente è stato dedicato all'isolamento sanitario e quindi i nuovi giunti ad oggi vanno a Torino, si non rimangono a Milano né in un istituto vicino, neanche nella regione. Vabbè, per quanto riguarda ieri, i ragazzi, vabbè, non è la prima volta che si va fuori da quel carcere e i ragazzi quindi erano, a parte che erano già stati avvisati, erano già pronti e carichi prima del presidio. Infatti siamo arrivati e c'erano varie camionette e loro stavano già facendo cori contro la polizia, contro il carcere, e quando siamo arrivati ci hanno subito coinvolto rilanciando cori loro e chiedendoci di rispondere. E siamo stati lì fuori con un po' di musica e anche ad ascoltare però le loro storie. Ci raccontavano appunto di persone che magari erano già lì dentro anche da 4 anni e che avevano fine pena anche abbastanza lunghi. E quindi boh, ma è stata una giornata abbastanza partecipata nonostante la pioggia e loro erano appunto molto contenti. Sì, diciamo questo, ci sembrava importante andare fuori, soprattutto in questo momento, fuori dal carcere minorile, visto anche questo momento la narrazione che si fa della devianza minorile dei giovani, di questi giovani che sono apparentemente fuori controllo, una realtà descritta ovviamente dai giornali, ma anche spinta anche appunto dal Tribunale dei Minori, che si dice molto preoccupato della situazione, e una realtà che ovviamente scarica la responsabilità sempre sugli individui e sui gruppi di individui, non tenendo conto invece del contesto in cui ci troviamo a vivere nelle città e soprattutto nel contesto anche di pandemia e di guerra, che approfondisce la diffidenza in questo momento verso tutto quello che lo Stato impone. E sicuramente penso che torneremo lì fuori, c'è la necessità di, insomma, di farli sentire, di accorciare questa lontananza che vivono costretti lì dentro e di far uscire anche le loro storie e quello che succede lì dentro. Ok, perfetto. Dai, grazie mille, ti ringraziamo, sperando di risentirci per rilanciare qualche altra iniziativa che ci sarà lì fuori appunto al Beccaria. Intanto ti ringraziamo e ti auguriamo buona serata. Va bene, grazie a voi. Ok, perfetto. Ciao. E ora ci sentiamo i Cindy Oss con Immigrante Illegale. Lo portas al mundo libre, estamos. Allora, torniamo in diretta, 20 e 26, cronache di regime. Ricordiamo sempre i contatti dove potete scriverci via SMS, via Telegram, c'è cioè il 351-5579-698. Potete scriverci anche alla pagina Facebook o alla pagina Instagram e via email a cronacadiregime@autistici.org. Allora, siamo in diretta e ogni tanto possono anche capitare dei disguidi e purtroppo ci è saltata l'intervista con un compagno del collettivo di Ci Siamo per parlare dell'iniziativa del 31 marzo. È saltata l'intervista per motivi di salute, probabilmente il Covid ha colpito ancora, quindi un saluto al compagno e sperando che si rimetta presto. Allora, vi leggiamo giusto due robe, appunto perché abbiamo introdotto l'argomentazione con il pezzo Immigrantes Illegal dei Cindy Os, e vi spieghiamo un po' cos'è successo a Milano il 31 marzo, o perlomeno ci provo. Allora, intanto, appunto, il 31 marzo a Milano c'era questa manifestazione degli immigrati e delle emigrate in tutta Italia. Era stata fatta una chiamata nazionale dove i migranti chiedevano il permesso di soggiorno incondizionato per tutti, non legato al contratto di lavoro nella residenza, cittadinanza per tutti i bambini nati in Italia, abolizione di tutti i decreti sicurezza, fine degli abusi e dei lunghi tempi di attesa nelle questure, azzeramento dei costi dei permessi, chiusura dei centri di detenzione, CPR e fine dei rimpatri. Permesso di soggiorno valido in tutta l'Unione Europea. Appunto alle 9:30 presso l'ufficio immigrazione di via Montebello, in Turati, presso la metro di Turati, insomma, in zona Fate Bene Fratelli, alla questura, a Milano si è tenuta questa iniziativa. Allora, leggiamo un articolo al volo di Napoli Monitor, che spiega più o meno appunto la chiamata e quello che è successo. Non vi leggiamo tutti gli interventi che sono stati riportati perché può essere un po' ridondante e pesante, tipo ora in diretta sentirsi degli interventi letti da me, e ci scusiamo ancora insomma per la diretta saltata. Allora, Napoli Monitor dice così: si è svolto giovedì 31 marzo lo sciopero nazionale indetto dal coordinamento Documenti per tutte e per tutti, e l'iniziativa è stata sostenuta da Campagna in lotta contro il razzismo e lo sfruttamento. L'iniziativa, con appuntamenti in varie città d'Italia, è nata per chiedere un cambiamento radicale delle politiche migratorie che impediscono a molti migranti di ottenere i documenti, costringendoli a vivere in condizioni di estrema fragilità e marginalità. Siamo andati ad ascoltare le voci a Torino e Milano nei presidi organizzati davanti alle rispettive questure, luoghi simbolici dove ogni giorno decine di migranti si mettono in fila per accedere agli uffici immigrazione nella speranza, spesso disattesa, di ottenere il permesso di soggiorno. Quegli stessi uffici dove invece capita che ai migranti vengano notificate le espulsioni oppure che, dopo mesi di attesa, zelanti funzionari decidano di non riceverli per motivi più delle volte pretestuosi. Allora, andiamo a vedere come ha descritto Napoli Monitor quello che è accaduto a Milano. I migranti del collettivo Ci Siamo, che riunisce abitanti di diversi stabili occupati in città, si sono fermati in uno spiazzale a pochi passi dall'ingresso dell'ufficio immigrazione in via Montebello. Sostengono un ampio striscione con la scritta "No al razzismo, no allo sfruttamento. Documenti per tutti senza discriminazione". Dietro di loro ci sono gli italiani della rete solidale, che li sostiene da diversi anni nei percorsi di lotta e occupazione di stabili abbandonati. Al di là dello striscione, un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa si avvicina in modo minaccioso, cerca il contatto con i manifestanti e prova ad allontanarli da via Montebello, ma dopo qualche minuto di tensione la resistenza pacifica dei migranti rinunciano e restano lì davanti allo striscione ad ascoltare i vari interventi che si alternano alla musica della banda degli Ottoni a Scoppio. Diciamo che questa situazione e la presenza in strada è durata circa 3 ore, già che ci siamo, leggiamo più o meno quello che è accaduto a Torino. A Torino alle 10 di mattina è iniziato il presidio davanti all'ufficio immigrazione della questura. Nel piazzale antistante l'ingresso si sono radunati lavoratori immigrati e solidali. Intanto uomini e donne erano in fila per accedere all'ufficio. Alcune transenne delimitavano la linea di un percorso obbligato. La coda era gestita da funzionari esperti nel disegnare gesti stanchi e arroganti. Poco più distante erano parcheggiate 3 camionette dei reparti antisommossa. Gli agenti senza caschi ricevevano in volto il sole del mattino. Una cassa d'amplificazione ha diffuso le voci dei lavoratori. Primo intervento è stato di un cittadino afghano. Voleva essere ricevuto dall'ufficio, ma un funzionario lo aveva appena allontanato. Così l'uomo ha colto l'occasione del presidio per prendere il microfono e protestare. Gli altri 3 discorsi sono stati pronunciati da lavoratori che appartengono al percorso di lotta. E poi c'è un Torino bis, diciamo che nel tardo pomeriggio, sotto una pioggia alterna, in Piazza Castello, accanto al monumento del Duca d'Aosta, si è svolta un'assemblea a microfono aperto che si proponeva di ragionare sugli effetti dello stato di emergenza permanente, organizzata dal coordinamento locale ai lavoratori No Green Pass, ma in realtà senza alcuna rivendicazione di bandiera, unito per un momento di confronto, istanze, gruppi e voci diverse. Anche un ragazzo già presente al mattino davanti alla questura ha preso la parola. E vabbè, poi ci sono i vari interventi, insomma, descritti. Se volete leggere, approfondire, potete andare su napolimonitor.it. L'articolo si chiama "Lavoratori migranti in lotta, voci da Torino e da Milano". Allora, noi ora proseguiamo con la nostra scaletta. Ci scusiamo ancora per questo disguido, ma purtroppo in diretta accadono queste cose. Proveremo a recuperare l'intervista settimana prossima. Ora ci sentiamo July 2019 degli Straight Opposition, e poi spieghiamo perché. Questo è un pezzo che viene da Path of Separation, il nuovo CD degli Straight Opposition, e parla un po' di quello che è successo prima del Covid, che, come mi diceva, insomma, la persona che andremo a intervistare dopo, Ivan, il cantante appunto degli Straight dal 2004, insomma, un po' di gente si è scordata di quando il caro Salvini teneva in ostaggio i migranti sulle barche. Bene, ci sentiamo July 2019 e poi torniamo in diretta appunto per parlare un po' con Ivan del nuovo CD dei Straight Opposition. Torniamo in diretta con Cronache di Regime, 20:35, come al solito facciamo insomma l'intervista al gruppo, e questa settimana parliamo un po' con gli Straight Opposition, che sono un po' vecchiotti, suonano dal 2004 se non mi sbaglio, vero Ivan, ci senti? Sì, vi sento, voi mi sentite? Sì, forte e chiaro, anche se stai a Pescara o stai a Bruxelles, questo poi dopo ce lo dici. No, io sto a Pescara, anzi a Manoppello. A Manoppello Scalo specifichiamo, perfetto, bravo. A casa dei miei, qui a Manoppello. Perfetto, in mezzo al verde, preciso. Sì, preciso, esatto, il verdissimo proprio. E allora, niente, come al solito iniziamo l'intervista al gruppo, e ora tocca che ci racconti un po' la storia dei Straight Opposition, è un po' lunghetta, quindi ti lascio parlare. Ma allora, guarda, gli Straight Opposition nascono nel 2004 dalla volontà di quattro ragazzi disadattati e disoccupati di sfogare un po' il senso di frustrazione derivante dalla propria città e dal proprio ambiente circostante. E ovviamente unita alla nostra passione per l'hardcore, per il metalcore, per il rap, eccetera. Abbiamo iniziato a muovere i primi passi con dei concerti in zona, volevamo allargare il giro, quindi abbiamo creato Pesca Hardcore. E niente, volevamo comunicare la nostra frustrazione al resto della nostra comunità, che non ci integrava in qualche maniera, nella quale non ci sentivamo assolutamente in linea di pacificazione, diciamo così. Nel 2005 abbiamo fatto, anzi nel 2004 abbiamo fatto il nostro primo demo tape, poi con siamo entrati pezzi. In contatto con tre pezzi. Come? Tre tracce c'erano, dimmi se sbaglio, perfetto, vedi, sono preparato. Sì, tre tracce, promo 2004. E poi niente, poi in realtà quel promo era influenzato ancora anche da cose più crossover, più, che ne so, Soulfly, cose di questo tipo qui. Poi in realtà volevamo spingere un po' più sull'hardcore tirato, sempre di stampo americano, musicalmente parlando. E abbiamo fatto Step by Step insieme all'Indelirium Records. E poi niente, da lì è storia. Il giro si era allargato. Nel 2007 abbiamo fatto Gated Against Mediocracy. Nel 2010 Furious Sons Unbeaten. Poi c'è stato un primo semi-scioglimento dalla band, perché alcuni membri storici devono abbandonare la band per motivi lavorativi. Abbiamo continuato con nuovi membri, con Tenoz e The Fury from the Coast. A seguito di un lungo tour, finiti ormai e vogliosi di fare nuove, di proporre qualcosa di nuovo, abbiamo deciso di sciogliere la band, e poi sono nati i 217, però niente, insomma, il fuoco, come dicono adesso, non si è spento, non si era spento, ed eccoci qua con il Street Opposition di nuovo, con un membro storico che è Luca, rientrato nella band, e un nuovo disco su Time to Kill. Penso di essere stato più sintetico di così si muore. Sì, sì, per raccontare 18 anni con i vari cambi di line-up, eccetera, sei stato veramente super sintetico. E... Sì, perché è inutile che mi metto a raccontare tutti. Sì, va bene. Però sappiate che sono soddisfatto di tutti i dischi e di tutte le persone che hanno suonato con noi, che hanno portato qualcosa di nuovo e di sincero nella band. E soprattutto di averci fatto tour su tour, perché poi alla fine del 2017 stavamo incredibilmente a 500 concerti sparsi tra l'Europa, l'Asia, quindi niente, una bella storia. Bella storia. Come hai detto tu, il fuoco non si è spento, il primo amore non si scorda mai, e torna Luca che è dalla chitarra, però mi dicono dalla regia che va alla batteria, incredibilmente. Sì, sì, Luca, ma Luca potresti mettere a fare qualsiasi cosa. Quando una persona nasce con la genialità, è così, lui è capace, è portato per qualsiasi tipo di strumento, quindi lui ha sempre amato la batteria. Lui aveva un'altra band storica ancora a Pescara, cioè aveva, lui era il batterista, era entrato, si chiamavano DNA, e lui era già batterista, cioè aveva anche registrato dei dischi. Niente, lui si è appassionato poi completamente alla batteria e ha deciso di tornare in forma di batterista. Però c'è anche da dire che moltissimo materiale di Path of Separation è scritto da lui come chitarrista e arrangiatore. E si sente, devo dire che si sente, sì, l'influenza, sì. Se si conoscono i primi CD vostri. Sì, esatto, sì. Allora niente, tu mi dici che nel 2017 si scioglie il gruppo e poi insomma vi riformate, e quindi volevo chiederti come è nata l'idea di questo CD è anche l'idea appunto di riformarvi, e se questo periodo di stop Covid, come anche in altri, molti altri gruppi, ha riscontrato, e quindi ti faccio questa domanda appunto sull'esperienza dell'intervista fatto finora, ha incentivato la produzione musicale, le sonorità, eccetera. Allora, come ho anche scritto recentemente in un'intervista per una zin che poi è In Your Face Hardcore, la cosa è andata così: mi telefona un giorno Enrico Giannone della Time to Kill, membro storico di band come Undertakers, e mi dice: guarda Ivan, io da sempre ho il sogno che tu e Luca risuonate insieme, però so che gli State Opposition ormai sono sciolti, lo vorresti fare un disco con i 217? Dopo il Covid, purtroppo, i 217 hanno subito una battuta d'arresto. Invece io e Luca stavamo riparlottando per mettere su qualche cosa. Allora gli ho detto: Lu, senti, che vogliamo fare? Vogliamo prendere questa, riprendere questa situazione e fare un disco nuovo con Time to Kill. E le cose sono andate, perché Luca aveva su due persone che sono membri effettivi dell'Street Opposition, e abbiamo cominciato a scrivere da pazzi, mandandoci i file a distanza nell'estate del 2021. E niente, è rinata così. Praticamente lo stimolo è arrivato da Enrico Giannone, dalla Time to Kill, che ringrazio, saluto, e ci ha dato questa spinta a riprendere, a dire qualcosa di nuovo. Sì, Enrico, volto storico, volto storico tra l'altro, sì, della scena hardcore, sì, italiana. Storico, hardcore, grindcore. E chi più ne ha, sì, più ne mette, insomma. E niente, sì, sì. Quindi va bene, già un po' mi hai risposto, insomma, questo periodo di Covid e pandemia in teoria non vi ha influenzato perché eravate fermi, però ora che si riparte avete già fatto, se non mi sbaglio, 3 date fine settimana scorsa. Sì, sì, sì, abbiamo fatto queste 3 date di rodaggio, è stato bello. È certo che riprendere dopo 2 anni di fermo, in una fase in cui si cambia il tuo corpo, cambia l'età diventa più importante, è stato comunque non facilissimo. Quindi siamo andati un po' al risparmio energetico, suonando i pezzi che sono più difficili degli altri, e poi riprendendo con la nostra solita, diciamo, gestualità, che non è legata ovviamente solo alla musica, ma anche alla corporeità, all'espressione di liberazione del corpo sul palco. Quindi diciamo che il Covid in qualche maniera si è fatto sentire retroattivamente. Cioè, salti, bene, di meno, fermato... quindi salti di meno. Quindi non salti più come una volta. Guarda, dipende dagli spazi. Okay. Se sto su un palco alto con 5 persone, sto sicuramente più fermo di prima. Se ho la possibilità di stare, come è successo a Roma, ad esempio, insieme alle altre persone, allora era lo stampo classico. Sì, sì, però ci vuole tempo per riprendere questo tipo di... allenamento. Bravissimo, questo tipo di allenamento, di... È allenamento pure quello a Cantessa. Però sono stati grandi concerti, Sono stati grandi concerti. Immagino. Sono stato veramente sorpreso, perché c'era un sacco di gente. Bello, figo, bello, molto bello. Di sicuro la gente è vogliosa di musica. Anche ieri, ad esempio, a Milano, sì, c'è stato un concerto qui, mia, al parchetto di Via dei Transiti, che è un buco, c'erano 400 persone praticamente circa, con tutti i gruppi di Milano, quindi... Cioè, senza neanche, cioè, c'erano i Kalashnikov, ok, però nel senso non c'era il gruppo di richiamo da fuori. L'ultima volta che ho visto i Kalashnikov è stato proprio che abbiamo suonato insieme, però stavo con i Seventy, no, con l'Istituto Opposition, dal Distruggi la Bassa, prima di tutto questo cazzo di casino, nell'estate 2019. E vabbè, dai, se ci vuoi dire un po' di date in programma future che avete... Guarda, allora, a parte che vabbè, il 13 aprile suoniamo a Bruxelles, io tra qualche giorno risalgo, facciamo le prove e poi suoniamo. Poi in maggio non lo so, penso non ci sia niente, cioè almeno sia stato spostato. Poi giugno ci dovrebbero essere delle date tra il Belgio e l'Olanda, e delle date pure il 12, madonna, io per le date sono un disastro, 11 e 12 se non sbaglio pure a Padova e Bergamo. E poi 16 luglio a Cagliari, in un festival dove ci stanno anche i Bull Brigade e tanta altra bruttissima gente, la sera prima sono in televisione di Europower, e fine estate abbiamo questo 7-8 giorni di date in cui tra il 22 di luglio e il 30 luglio stiamo tra, penso, Milano, Modena, Pescara, e il tutto culminato a Ferrara. Chiaramente io sono un disastro per queste cose, perché non mi ricordo un cazzo, manco come mi chiamo, e sono completamente rincoglionito, quindi andatevelo a vedere sul sito che fate prima, almeno avete qualche indicazione precisa. Vabbè, guarda, ti faccio l'ultima domanda, e questo è uno schiribizzo mio, anche se lo so, però voglio che lo dici in diretta. Allora, la formazione nuova è una chitarra o due chitarre? Sì. Aspetta che non ti sento. Allora, la formazione nuova è a una chitarra o a due chitarre? Allora, la formazione in certi concerti sarà una chitarra, in altri concerti sarà due. Okay. Perché il disco in realtà è concepito due chitarre. Ok, perfetto. E... Quindi le prime 3 date le abbiamo fatte a 2 chitarre in realtà, okay, con 2 Nicola. E Luca come suona? Un pedale o doppio pedale? No, Luca sono doppio pedale, Luca sono Luca metallaro, fa metallaro, tutta la vita. Sì, e... metallaro tutta no, la vita. No, non solo, però mo, non gli puoi togliere questo piacere. Sì, se gli levi il doppio pedale è un casino. E no, va bene, può. Dai. Allora, guarda, ti ringraziamo. Ora noi ci sentiamo due pezzi del vostro album. Uno bene. È It's Killing Time, che insomma parla un po', sì, di quelle persone che affossano la scena facendo i leoni da tastiera su Facebook, e un altro invece, esatto, è il pezzo che dà il nome al CD, Path of Separation. Avevo piacere se, sì, avevi voglia di presentare tu questo pezzo. Sì, questo è incredibilmente un pezzo dark, quindi non è hardcore. È stato scritto, non mi ricordo se a settembre o ottobre, quando c'ero anch'io in presenza in sala prove. Volevamo richiamare, niente, non volevamo fare un disco completamente tutto uguale dall'inizio alla fine, avevamo voglia di fare un pezzo dark, outsider. Questo è il pezzo sicuramente più outsider del disco, e parla di una separazione immaginaria da vecchie situazioni, dalla tua città natale, dalla tua famiglia, dal lavoro, una rottura radicale con quello che era il tuo passato, di andare avanti e non c'è la possibilità più di tornare indietro, o da una storia d'amore, insomma. È un pezzo dark, influenzato dai Killing Joke, dai Joy Division, dai Bauhaus, di tutto il dark, insomma, che ci piace. E niente, è una specie di spartiacque nel disco. Ci sono momenti dark qui e lì, anche se il 90% è un assalto frontale. Perfetto, dai, allora noi ti salutiamo e ci sentiamo Path of Separation. Vi saluto, e... perfetto, godetevelo e ditemi che ne pensate, scriveteci, anche se vi fa cagare. Okay. Un abbraccio. Perfetto, grazie mille, ciao, buona serata. Ciao. Path of Separation, Straight Opposition. We'll be right back. Questa era It's Killing Time degli Straight Opposition e, come ormai tutte le puntate in diretta l'anno scorso, facciamo il riepilogo di tutte le iniziative che ci saranno questa settimana a Milano e proveremo a sopravvivere. Sulle note di Gloria Gaynor e We Survive vi diciamo tutto ciò interessante, appunto, che avverrà a Milano, o perlomeno quello che siamo riusciti a reperire. Allora, come detto, partiamo dal presidio che si terrà mercoledì mattina fuori al tribunale La Lotta Non Si Processa, presidio in solidarietà e sostegno agli imputati del movimento di lotta per la casa per lo sgombero di Via Nera del 2012, appunto mercoledì 6 aprile dalle ore 10:30 davanti al tribunale di Milano. Come ci ha detto prima il compagno, si partirà insieme da fuori lo spazio comune Cuore in Gola per andare tutti fuori al tribunale. Poi invece il 7 aprile, giovedì, ci sarà un'interessante iniziativa a Saronno presso un circolo, allora scusate che lo ritrovo, presso la cooperativa popolare saronnese, scusate, mia amica 17. A Saronno ci sarà questa iniziativa tenuta da Gabriele Fuga, da avvocato difensore dell'area extraparlamentare libertaria diventa imputato. Viene arrestato il 30 aprile 1980 con l'imputazione di partecipazione a banda armata e associazione sovversiva. Trascorre 14 mesi in carcere in relazione al gruppo Azione Rivoluzionaria. Viene scarcerato in primo grado a Livorno e quindi c'è l'autobiografia La cella dell'avvocato. Questa iniziativa si terrà giovedì 7 appunto a Saronno. Poi andiamo avanti, ci sono svariate iniziative venerdì 8. Allora iniziamo con la festa di compleanno, i 7 anni di Lume, quindi in zona Porte Venezia ci sarà il compleanno di questo spazio. Poi invece presso Revdar, che è lo spazio dal quale andiamo in diretta tutte le settimane con Cronache di Regime, alle ore 18:30 in via Digione 7 ci sarà l'aperitivo di presentazione e progetto di radiazione, appunto un'altra radio che è organizzata dal Centro Politico Comunista Levante di Padova. Saranno presenti appunto i due compagni della radiazione, ci spiegheranno in cosa consiste questo progetto. Come detto, l'8 e il 9 aprile ci saranno le giornate di mobilitazione, lo sciopero dei rider in tutte le città contro sfruttamento, caro benzina e morti sul lavoro per il contratto, salario, salute, sicurezza, diritti e dignità. Sempre venerdì 8 dalle ore 20 invece ci sarà un'iniziativa in via Gola, la proiezione di Gentrification Berlino, il video che è stato girato da Lella Antinozzi e Claudio Marson nel 2009 appunto a Berlino, della durata di 27 minuti. A seguire ci sarà un aperitivo con birrette, benefit inguaiate, inguaiate con la legge, e soprattutto il karaoke in the street, quindi contro sgomberi, riqualificazione e gentrificazione ci si prova a riprendere le strade anche con un po' di musica, cercando di farlo in maniera un po' divertente e cercando di cantare anche un po' insieme con il quartiere. Il 9 aprile ci saranno una serie di iniziative. Iniziamo dalla giornata aperta che ci sarà allo spazio comune 20.092 a Cinisello Balsamo, con musica live, pranzo sociale a prezzi popolari e tanto altro. In proprietà pirata invece, in via Leningrado 8 a Milano, dalle ore 20 ci sarà insomma un concerto. Alle ore 20 aprono i battenti, alle ore 9 iniziano i concerti con Cattivo Sangue, Sulle Barricate Tour, Sit Pancoi da Molfetta. Ricordiamo, abbiamo intervistato appunto i Cattivo Sangue sabato scorso. Poi The Bad Plus, Garage Punk from Milano e Linguini, Noise Punk da Milano, un gran gruppo da seguire live, quindi un invito ad andare appunto in proprietà pirata il 9. E poi ci sarà appunto l'iniziativa che avevamo, di cui avevamo parlato già anche settimana scorsa, che si terrà in tre momenti. C'è stata il 1 aprile appunto venerdì scorso, l'ultima sarà il 22 aprile e invece sabato dalle ore 15:30 in un luogo che all'aperto ci sarà sempre a Saronno, 100 anni appena dal Biennio Rosso all'ascesa del fascismo. In questa iniziativa si parlerà della nascita dei fasci di combattimento il 23 marzo 1919 e il loro battesimo di fuoco 15 aprile 1919. Che cosa avviene invece fuori dall'Italia, Germania, Russia e le Americhe? A seguire aperitivo e musiche cantate in memoria di un proletario combattivo, Francesco Pessina, nato nel 1888 e morto nel 1922, e altri canti del repertorio sociale di quegli anni. Quindi questa iniziativa, che è curata da Calusca City Light e Collettiva Despota, si terrà a Saronno all'aperto. Sabato 9 e domenica 10 aprile ci sarà la festa della Semina 2022 a Leoncavallo, la solita iniziativa primaverile grande e grossa di autoproduzione, insomma, sui semi, che si tiene a Leoncavallo. Al Boccaccio invece il 10 aprile ci sarà Coclea 2.0 sulla moda lenta e come ritrovarla, dalle 15.30 alle 19.30 presso la FOA Boccaccio 003, di via Timavo 12, Monza. Allora, prendi ciò che vuoi, a quanto vuoi, free shop, offerta libera, abiti, accessori e cose ganze. Poi ci sarà il workshop di toppe, porta i tuoi capi bucati e rammenda con noi, toppe serigrafate da Serigrafatti. E poi guarda con noi River Blue 2016, un documentario di 90 minuti sulla fashion industry e l'inquinamento delle acque, proiezione in loop. Merende e birrette fino alle 7:30 e poi ci sarà il DJ set Sedna D. Sempre il 10 aprile ci sarà una Vandal Taz, Vandalize, la Taz appunto organizzata da Azione Antifascista a Milano, 10 aprile, dedicata interamente ai murales, probabilmente all'imbrattamento, come potrebbero dire i mass media di regime, le forze del disordine, o forse come diciamo noi, all'imbellimento di mura e spazi. Quindi Vandal Taz il 10 aprile, sempre il 10 aprile presso il Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa, sito in Viale Monza 255, ci sarà la presentazione del capitalismo cibernetico dopo il panottico oltre la sorveglianza, questo libro di Renato Curcio. Ricordiamo anche l'iniziativa che si terrà il 10 aprile per un compagno che se n'è andato l'anno scorso, Bruno Unfiore, che non morirà mai, per ricordare insieme il nostro amico, compagno e fratello Bruno. Domenica 10 aprile dalle 3:30 al parchetto di Piazza Tirana Giambellino ci sarà la Jam Session. Ogni contributo artistico e musicale è benvoluto. E chiudiamo preannunciando una o due giorni contro la repressione, che non sarà settimana prossima, ma sarà nella settimana che va dal 15 al 16 aprile. Ci saranno aperitivi e aggiornamenti per il processo, per il corteo del 9 febbraio in solidarietà e risposta allo sgombero dell'asilo occupato. Il primo giorno invece è il secondo giorno, chiacchiere e aggiornamento sulla solidarietà alle lotte anticarcerarie. Quindi questi due giorni, 15 e 16 aprile a Milano, ne parleremo meglio settimana prossima. Settimana prossima sarà anche l'ultima puntata stagionale di Cronache di Regime, poi lunedì 18 è Pasquetta, non andremo in onda, e lunedì 25 aprile neanche. Ritorneremo il 2 maggio con un programma, come detto ad inizio puntata, un pelo più leggero, sia a livello di portata di contenuti che a livello musicale, un po' più freshness, con l'aiuto di un DJ. La programmazione di Mala Radio comunque non si fermerà, perché a breve ci saranno delle novità anche su altre trasmissioni, speriamo che insomma partiranno nuovi contributi presi e condivisi anche da altre realtà che a Milano si occupano di fare radio. Allora vi salutiamo per questa settimana, sono le ore 21, ora ci sentiamo gli ultimi pezzi di questa sera. Prima abbiamo messo i Straight Opposition con il loro nuovo CD Path of Separation, ora invece mettiamo i Straight Opposition che con la loro Pescara Hardcore Crew e con Cuba Cabal appunto fanno un po' di buon crossover, come ci diceva Ivan, e Straight all'inizio erano abbastanza influenzati dal crossover. E poi ci sentiamo anche Kento e Principe, che insieme a DJ Fast Cut cantano e realizzano questo pezzo che si chiama Odio agli Indifferenti. Bene, noi vi salutiamo per questa penultima puntata di Cronache di Regime e ci sentiamo settimana prossima, sempre alle 19, sempre alle frequenze streaming di Mala Radio, sempre in diretta dall'associazione Revdar in via Digione 7 a Milano. Buona serata a tutte e tutti. capanna, sulla costa, non ti puoi sbagliare. Cemento armato, troppo armato da far saltare una nazione. Se la dritta via è smarrito, ricordati che ogni verità è curva. Gioco che dura per questioni di malloppo, ma per qualcuno è pronta legna per il suo cappotto. Sgrizzi di sangue per la storia dell'umanità pure nella mia città. Questa è la mappa degli uomini, storie di vita nel braccio della morte. Sono solo giorni di guerra per dividere torte. Siamo tutti clandestini con fissa dimora. Ad armare il suono ci serve solo un'ora. Basta una rima per creare disordine ed uno spiro cocaina per mantenere l'ordine. Del mondo, sbagliato, non ti puoi sbagliare. Yo. Ogni verità è curva, gioco che dura per questioni di malloppo, ma per qualcuno è pronta legna per il suo cappotto. Sgrizzi di sangue per la storia dell'umanità pure nella mia città. Questa è la mappa degli uomini, storie di vita nel braccio della morte. Sono solo giorni di guerra per dividere torte. Tutti clandestini con fissa dimora. Ad armare il suono ci serve solo un'ora. Basta una rima per creare disordine ed uno spirro cocaina per mantenere l'ordine. Quartieri, quartieri, riprendiamoci tutto, riprendiamoci tutto. Per le strade, per le strade, non ti puoi sbagliare. Yeah, Death Poets, Torino Roma in connessione. Chick Prince, Ciccio Kento al microfono, DJ Fast Cut, questo va ai veri artisti, quelli là fuori. Yeah. E yo fra, ti spiego com'è che va, sono un rapper anni fa, non da vetrino, varietà, disti tempi, bisogna stare attenti, prendi posizione, odia gli indifferenti. E yo fra, ti spiego com'è che va, sono un rapper anni fa, non da vetrino, varietà, disti tempi. Posizione, odia gli indifferenti. Il mio sogno nel cassetto non è stato rimosso. Salvini sappia che a piazzale Loreto c'è ancora posto. Merda. Scrivo con l'inchiostro rosso sopra un foglio sporco. Il microfono, cosa? L'unico modo che conosco. Alla festa della Lega suonano a Lorenzo Puta. E poi? Parlano di strada ma non l'hanno mai vissuta. Lo spingiamo nelle strade, nei cortei, non su certi palcoscenici. Come the power, come public enemy. mentre la moda detta i gusti agli ignoranti. Gli artisti fanno ciò che sanno senza pensare ai guadagni. I poeti non si affannano a rincorrere i contanti. Gli MCs non si affannano a copiare i cantanti. Le stronzate che rapida anni ha fatto più danni di quello che pensi. Un MC non pensa ai compensi, un vero poeta non pensa ai consensi. Non conti i dischi che vendi, le tipe che stendi, ma sono ammazzate che prendi. Yo, ma è meglio se scendi. Yo fra, ti spiego com'è che va. Sono un rapper anti fa, non da vetrino, varietà. Di sti tempi, bisogna stare attenti. Prendi posizione, odia gli indifferenti. Yo fra, ti spiego com'è che va. Sono un rapper anti fa, non da vetrino, varietà. Di sti tempi, bisogna stare attenti. Prendi posizione, odia gli indifferenti. Vecchio quanto basta, sto con principe e con Fascat. Non ho neve nella nave, solo carta e penna in tasca. Tiro sulla lampo al parca, tempi stretti e braca larga. La volante passa e guarda, ci fotografa la targa. Reggio Calabria, City, Roma, fino a Carmagnola. I tuoi rapper preferiti fumano troppa stagnola. Ti ho detto con chi sto, né casino né casa pound. La rivolta nel mio sound, rest in power primo Brown. Antifascista vero fin dal giorno zero. In questa giungla di cemento, barba lunga, guerrigliero. Scarico la rabbia in questo suono che ci abbraccia, come quando giù a Ramalla scaricavano gli AK. Il nome è Kento e sai, la musica mi parla, ma non posso essere Tenko neanche con un anagramma. Quindi giro senza pace, scriverò pure stasera. Il mio disco non lo trovi tra la musica leggera. Yo fra, ti spiego com'è che va. Sono un rapper anti fa, non da vetrino, varietà. Di sti tempi, bisogna stare attenti. Prendi posizione, odia gli indifferenti. Yo fra, ti spiego com'è che va. Sono un rapper anti fa, non da vetrino, varietà. Di sti tempi, bisogna stare attenti. Prendi posizione, odia gli indifferenti. Kento odia gli indifferenti. Principe odia gli indifferenti. DJ Fascat odia gli indifferenti. Dead Poets, l'album per il 2016. Reggio Calabria, Roma, Carmagnola, Torino. Prendi posizione. Il microfono è una responsabilità. I beats sono una responsabilità. L'hip hop è una responsabilità condivisa. Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spie nel mio microfono, so bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle balle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico, più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi, danno gli all'ingranaggio. Nasce Cronache di Regime, il nuovo programma di Malaradio Milano, in onda ogni lunedì in diretta dalle 19 in poi. Un mix di aggiornamenti tra il mondo delle sbarre a cielo aperto e quello di chi vive dentro le gabbie, con uno sguardo a cosa accade in città e dintorni, senza tralasciare, logicamente, le nuove uscite musicali, punk, rap ed oltre. Per ascoltare la diretta vai sul nostro sito malaradio.noblogs.org e clicca quando e dove ascoltarci. Scrivici via SMS o Telegram al numero 351-55-79-698. Scrivici anche via email a cronachediregime@autistici.org. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cronache di Regime, cose che non vedi.